Ad alta voce. Elio De Capitani legge Limonov di Emmanuel Carrer. Traduzione di Francesco Bergamasco. Negli ultimi giorni di prigionia, Edouard giunge a una conclusione che lo colma di una strana gioia, di una sorta di pienezza la cui ricerca diventerà una costante della sua vita. Quando è entrato in carcere, ammirava Garcon e sognava di diventare un giorno come lui. Quando ne esce, è persuaso, e da qui nasce quell'entusiasmo, che Garcon non meriti poi tanta ammirazione e che lui, Edouard, farà molta più strada. Con i suoi anni passati nel campo e i suoi tatuaggi, Garcon può abbagliare per qualche tempo degli adolescenti di provincia, ma, conoscendolo un po', ci si accorge che parla dei grandi criminali da quel piccolo criminale che è. Non si confronta con loro e non pensa per un solo istante che potrebbe essere al loro posto. Ne parla un po' come quel povero coglione di Beniamin parla degli alti gradi. È un modo di stare al proprio posto, che ha una sua umiltà e un suo candore, ma questa umiltà e questo candore non fanno per Edouard, il quale pensa che fare il criminale è una buona cosa, anzi che non c'è niente di meglio, ma pensa anche che bisogna puntare in alto. Diventare un re del crimine, non uno scagnozzo qualsiasi. Quando Edouard lo mette a parte di questi nuovi propositi, Kostya ne è elettrizzato. Mentre l'unica ambizione di Garcon, tornato in libertà, sembra quella di giocare a domino, i due ragazzi si aizzano reciprocamente al disprezzo per tutto ciò che li circonda. Della società che si può vedere a Saltov non si salva nulla. Proletari ottusi e rassegnati, teppistelli destinati a diventare proletari come i genitori, ingegneri o ufficiali che sono soltanto proletari ripuliti, dei commercianti non parliamone neanche. Nessun dubbio, l'unica soluzione è diventare criminali. Ma come? Come trovare una banda e farsi accettare? In città devono essercene per forza. I due si fanno coraggio e salgono sul tram che li porta in centro, eccitatissimi. A noi due, Kharkov. Purtroppo, una volta arrivati, si trovano a disagio, come la feccia della banlieue parigina in Boulevard Saint-Germain. Edouard, però, ha vissuto lì, in un'epoca che, come la madre, tende a idealizzare. Porta Kostya in pellegrinaggio ai luoghi della propria infanzia. Via dell'Armata Rossa. Viale Sverdlov, ma il giro termina presto e i due non sanno più dove andare, a chi rivolgersi. Hanno appena il coraggio di ordinare una birra in un chiosco, dopodiché, con la coda tra le gambe, fanno ritorno al loro sobborgo, dove la vita è così drammaticamente lontana dalla vita vera, ma dove si dà il caso che vivano, e questa è una gran sfiga. Poi Edouard conosce Kadik, che sarà l'altro grande amico della sua adolescenza. E le cose cambiano. Più grande di lui di un anno, Kadik vive con la madre e non bazzica ai piccoli delinquenti di Saltov, frequenta gente in centro città, ma non i criminali che Edouard desidera ardentemente avvicinare. La cosa di cui va più fiero è di conoscere un sassofonista che suona Caravan di Duke Ellington e di essere entrato in contatto, tramite lui, con i componenti del gruppo di Kharkov chiamato il Cavallo Blu, sorta di beatnik che hanno avuto l'onore di un articolo sulla Komsomolskaya Pravda, la Swinging Kharkov, in qualche modo. Per sottrarsi al destino segnato di ogni giovane di Saltov, Kadik aspira a diventare un artista. Anche se non ha una vocazione precisa, è perlomeno quello che si potrebbe definire uno al passo coi tempi. Suona un po' la chitarra, acquista dischi, di cui fa collezione, legge e dedica ogni energia a tenersi aggiornato su ciò che succede in città, a Mosca e persino in America. Tutte cose assolutamente nuove per Edouard. I suoi valori e i suoi codici vengono stravolti da Kadik, sotto la cui influenza Edouard si inizia al culto della sciccheria. Quando era piccolo, la madre lo vestiva con abiti comprati al mercato delle Pulci, luogo di smercio del bottino di guerra. Edouard indossava bei completini da bambino modello stile tedesco e provava un morboso piacere al pensiero che quelli erano i vestiti di un figlio del direttore della IG Farben o di Krupp, ucciso a Berlino nel 1944. In seguito si è imposto il codice vestimentario di Saltov: pantaloni da lavoro e grosso parca foderato di pelliccia sintetica, qualunque stranezza è considerata roba da checca. sicché i suoi amici rimangono di stucco quando un giorno lo vedono sfoggiare sotto un giubbotto giallo canarino con il cappuccio, un paio di pantaloni di velluto lilla cangiante e scarpe con una chiodatura così robusta che i tacchi, quando li trascina sull'asfalto, mandano scintille. A Saltov, lui e Kadik sono gli unici in grado di apprezzare il proprio dandismo, ma siccome tutti sanno che Eduard è pronto a tirare fuori il coltello, ci si limita a prenderlo un po' in giro senza dargli della checca. Il dandismo è quel che gli piace anche nei jazzisti idolatrati dal suo nuovo amico. Alla musica Eduard è abbastanza indifferente e lo resterà tutta la vita, ma in compenso ricomincia a leggere. Si era fermato a Jules Verne e Alexandre Dumas, ma ora riprende da Romain Rolland, di cui Kadik gli presta Jean Christophe e L'âme enchantée, vasti e vaporosi romanzi di formazione che penso di essere stato uno degli ultimi adolescenti francesi a leggere, ma che incontravano ancora un certo favore in Unione Sovietica, perché il loro autore era stato, per via del suo pacifismo, compagno di strada dei comunisti. Passa poi a Jack London, Knut Hamsun, i grandi vagabondi, quelli che hanno fatto tutti i mestieri e alimentato i propri libri di queste esperienze. In prosa, i suoi preferiti sono autori stranieri, ma quando si tratta di poesia, nulla vale quanto la poesia russa. E un ragazzo che legge poesia diventa naturalmente un ragazzo che scrive poesia e poi legge ciò che ha scritto alle persone che lo circondano. Così Eduard, che prima non aveva mai contemplato una simile vocazione, si ritrova poeta. Uno stereotipo vuole che in Russia i poeti siano popolari come da noi i cantanti di varietà. E al pari di molti stereotipi sulla Russia, anche questo è, o almeno era, assolutamente vero. Basti pensare a quel nome ricercato che il nostro eroe deve alla predilezione del padre, semplice sottufficiale ucraino, per il poeta minore Eduard Bagrischi, 1895-1934. E nel leggere Eddie Baby ti amo, il libro da cui ricavo le informazioni di questo capitolo, si rimane stupiti nel vedere che gli amici di Eduard, i piccoli delinquenti di Saltov, pur apprezzando le sue poesie, lo canzonavano un po' perché rubacchiava da Bloch o da Yesenin. Un poeta alle prime armi in una città industriale dell'Ucraina non è affatto fuori luogo, non più di un rapper in erba nella periferia parigina di oggi. Come lui può pensare che quella sia la sua grande occasione per sfuggire alla fabbrica o alla malavita, e come lui può contare sull'incoraggiamento degli amici, sul loro orgoglio nel caso in cui abbia anche solo un po' di successo. Spinto non soltanto da Kadik ma anche da Kostia e dalla sua banda, Eduard si iscrive a un concorso di poesia che si tiene il 7 novembre 1957, una delle feste nazionali dell'Unione Sovietica e, come vedremo, giorno decisivo della sua vita. Quel giorno la città intera si trova in piazza Dzerzhinsky, che è stata lastricata da prigionieri tedeschi ed è, come sanno tutti gli abitanti di Kharkov, la piazza più grande d'Europa e la seconda più grande del mondo dopo Tiananmen. Si susseguono sfilate, balletti, discorsi, premiazioni. Le masse proletarie sono vestite di tutto punto, spettacolo che suscita i sarcasmi dei nostri due dandy. E poi c'è il concorso di poesia al cinema Pabieda, Vittoria, dove Eduard, dietro la sua aria spavalda, spera con tutto il cuore che ci sia svieta ad ascoltarlo. Kadik è fiducioso. Svieta ci sarà, non può non esserci. Nulla di meno certo, in realtà. Svieta è volubile, lunatica. Eduard, in teoria, esce con lei. E quando gli amici gli chiedono se se l'è fatta, risponde di sì, benché non sia vero. Non si è ancora fatto nessuna ragazza. Gli pesa essere vergine ed essere costretto a mentire, perché secondo lui un uomo non dovrebbe mentire mai. Gli pesa non avere alcun diritto su Svieta e sapere che a lei piacciono i ragazzi più grandi. Gli pesa, a 15 anni, dimostrarne 12. Ripone ogni speranza nel quaderno che contiene i suoi versi. Ha scelto con cura quelli da recitare. Ha scartato le numerose poesie sui malviventi, le rapine a mano armata, la prigione, e ha saggiamente deciso di restare sulla lirica amorosa. Quando arriva insieme a Kadik al cinema Pabieda, Edouard vede fra il pubblico tutta la banda di Saltov, ma non svieta. Kadik cerca di rassicurarlo, è ancora presto. Sul palco si succedono diversi oratori ufficiali. Edouard non riesce più a trattenersi. Si umilia a chiedere se qualcuno ha visto Svieta. E disgraziatamente qualcuno l'ha vista. Al Parco della Cultura, con Shurik. Shurik è un imbecille di 18 anni con una rada peluria sul labbro superiore. E Edouard è sicuro che resterà commesso in un negozio di scarpe sino all'età della pensione, mentre lui avrà una vita avventurosa in giro per il mondo. Ma con tutto ciò, in quel momento Edouard darebbe qualsiasi cosa per essere al suo posto. Il concorso ha inizio. La prima poesia verte sugli orrori della servitù della gleba, cosa che fa sghignazzare Kadik. La servitù della gleba è finita da un secolo, moderno il tipo. Segue un pezzo sulla box copiato, come non sfugge a nessuno dei teppisti presenti, dall'astro nascente della poesia, Evgeny Yevtushenko. Alla fine tocca Edouard, che recita, sforzandosi di non piangere, la poesia composta per Svieta. Dopo, mentre sul palco gli danno il cambio gli altri partecipanti, la sua banda lo festeggia. Gli amici lo abbracciano, gli danno pacche sulle spalle, gli dicono succhiate l'uccello, saluto di rito fra i ragazzi di Saltov, gli profetizzano la vittoria e alla fine Edouard vince. Sale di nuovo sul palco. Il direttore della Casa della Cultura, Stalin, si congratula con lui e gli consegna un attestato e un regalo. Che regalo? Una scatola di domino. Cazzo, che figli di puttana, pensa Edouard, una scatola di domino. All'uscita del Pabieda, Edouard è attorniato dagli amici e cerca di darsi un contegno, quando gli si avvicina un tizio che dice di venire da parte di Tuzik. Tuzik è un malvivente molto noto a Saltov. Ha 20 anni, si nasconde per evitare il servizio militare, non si sposta mai senza una scorta di uomini armati e, dice il suo emissario, vuole conoscere il poeta. Gli amici si guardano preoccupati. C'è poco da scherzare. Sanno tutti che Tuzik è pericoloso, ma che sarebbe ancora più pericoloso rifiutare il suo invito. Edouard segue l'emissario in un vicolo cieco nei pressi del cinema. Qui lo stanno aspettando una 15 di tizi dalle facce patibolari. E in mezzo a quella corte, robusto, quasi grasso, vestito di nero, Tuzik, che gli dice di aver apprezzato molto la poesia e vuole che il poeta ne scriva una per Galia, la bionda dal trucco pesante a cui tiene un braccio intorno alla vita. Edouard promette che lo farà. Per sigillare l'accordo, Tuzik gli offre uno spinello di hashish del Tagikistan. È la prima volta che Edouard fuma. Lo spinello gli dà il voltastomaco, ma lui aspira ugualmente. Poi Tuzik lo invita a baciare Galia, sulla bocca. Non c'è da fidarsi. Tutto quello che dice Tuzik sembra avere un doppio senso. Se vi abbraccia, può darsi che voglia cavarvi le budella. Si dice che anche Stalin fosse così adulatore e violento. Edouard cerca di sottrarsi ridendo, ma l'altro insiste. Non vuoi pomiciare con la mia ragazza? Non ti piace la mia ragazza? Dai, mettici la lingua. È una musica già sentita, di malaugurio. Ma non accade niente di brutto. Continuano a bere, fumare e sfottersi per molto, molto tempo, finché Tuzik decide di levare le tende per andare a fare 2 passi in città. Edouard, che non capisce bene se lo hanno adottato come mascotte o come zimbello, vorrebbe approfittarne per eclissarsi, ma Tuzik non lo molla. «Hai già fatto fuori qualcuno, poeta?» «No», risponde Edouard. «Ti piacerebbe?» Dopotutto, Edouard trova eccitante avere amico Tuzik e camminare con lui alla testa di una 20 di bulli pronti a mettere a ferro e fuoco la città. È tardi, la festa è finita, la gente per lo più è tornata a casa e quelli che vedono avvicinarsi la banda lungo le strade dai lampioni rotti si affrettano a farsi da parte. Ma un tizio e 2 ragazze non si scostano in tempo. E Tuzik comincia a molestarli. «Hai 2 pollastre tutte per te», dice con suavità al tizio. «Me ne presti una?» Il tizio, pallido, capisce di trovarsi in una brutta situazione e cerca di scherzare. Ma Tuzik lo piega in 2 con un pugno allo stomaco. Al suo segnale gli altri cominciano a palpare le ragazze. Ci scapperà uno stupro. Ci scappa uno stupro. Ben presto una delle ragazze si trova nuda. È grassa, ha la pelle chiara, deve essere di una famiglia proletaria di Saltov. A turno gli scagnozzi di Tusik le infilano le dita nella passera. Edward fa come loro. Sente umido e freddo. E le dita, quando le tira fuori, sono sporche di sangue. Di colpo torna in sé. L'eccitazione si spegne. A qualche metro di distanza, in 10 fanno la fila per violentare l'altra ragazza. Nel frattempo il tizio viene pestato con violenza. Si lamenta sempre più debolmente, poi cessa di muoversi. Metà del suo volto è ridotta a una poltiglia sanguinolenta. L'incidente provoca qualche attimo di esitazione e stavolta Edouard riesce a svignarsela. Cammina a passi veloci, con il coltello e il quaderno di poesia in tasca, la scatola di domino sotto il braccio, senza sapere dove andare. Non da Kadik, non da Kostia. Alla fine va da Svieta. Ha voglia di scopare o di uccidere. Se Svieta è sola, la scopa. Se con Shurik, li uccide entrambi. Non ha motivo di non farlo. Siccome è minorenne, non possono fucilarlo. Si beccherà 15 anni e per gli amici diventerà un eroe. Nonostante l'ora tarda, la madre di Svieta, nota per essere poco meno di una puttana, gli apre la porta. Svieta non è ancora rientrata. Vuoi aspettarla? No, tornerò. Edward esce di nuovo nella notte. Cammina, in preda a un miscuglio di eccitazione, rabbia, disgusto e altri sentimenti che non riesce a identificare. Quando torna, Svieta è in casa, sola. Quel che avviene in seguito è confuso. Non c'è stato un vero e proprio scambio di parole. Edward è a letto con lei e la scopa. È la prima volta. Le dice: «È così che te lo infila dentro, Shurik?» Dopo che Edward ha raggiunto troppo in fretta l'orgasmo, Svieta si accende una sigaretta e gli espone la sua filosofia. La donna è più matura dell'uomo, e quindi perché l'unione funzioni sul piano sessuale, l'uomo deve essere più vecchio. «Io ho dell'affetto per te, Edik, ma capisci, sei troppo piccolo. Se vuoi puoi fermarti a dormire». Edward non vuole, e se ne va furibondo, convinto che le persone meritino di essere uccise e determinato da grande a uccidere, senz'altro. Ecco, questa è la storia di come Edward ha perso la verginità. La scena successiva si svolge 5 anni dopo, nella stanza in cui la famiglia Sabienka vive. È mezzanotte. Edward si veste senza far rumore per non svegliare la madre, che dorme sola nel letto matrimoniale. Il padre è in missione. Edward non sa dove e non gli interessa. Sono lontani i tempi in cui lo ammirava. Pur essendo dopo 8 ore di fabbrica stanco morto, non ha sonno. Così si siede davanti al tavolo su cui trova il rosso e il nero. Un volume di una collana di classici stranieri relegati in similpelle. Deve essere stata la madre a tirarlo fuori dalla piccola biblioteca in vetro che protegge dalla polvere le testimonianze della sua cultura per avere un po' di compagnia durante la cena solitaria. In passato Edoardo ha letto e gli è piaciuto. Sfogliandolo, gli cade sotto l'occhio la celebre scena in cui, in una notte d'estate, sotto un tiglio, Julien Sorel si forza a prendere la mano di Madame de Renal. Questa scena, che un tempo lo aveva entusiasmato, lo riempie ora di una improvvisa, vertiginosa tristezza. Solo pochi anni prima gli era facile identificarsi con Julien, venuto fuori da un paesino fetente senza altre risorse che il suo fascino e la sua smania di successo, e immaginarsi di sedurre anche lui una bella aristocratica. Ma ora vede con feroce chiarezza che di belle aristocratiche non soltanto non ne conosce nessuna, ma che non avrà mai la possibilità di conoscerne una. Aveva grandi sogni e da 2 anni tutto va storto. In realtà, da quando Kostia e altri 2 loro amici sono stati condannati a morte dal tribunale regionale di Kharkov, uno è stato giustiziato, mentre Kostia e l'altro se la sono cavata con 12 anni di campo. Anche Kadik aveva grandi sogni. Voleva diventare un jazzista ed è entrato nella fabbrica a falce e martello, e non valeva proprio la pena di prenderlo in giro per poi seguire qualche mese dopo, con la coda fra le gambe, la sua stessa strada. Edoardo adesso fa il fonditore. È un lavoro duro, che lo abbruttisce. Ma Edward è uno di quelli che vuole riuscire in tutto quello che fa. Se il destino gli avesse consentito di fare il delinquente, sarebbe stato un buon delinquente. Poiché fa il proletario, è un buon proletario. Berretto in testa, gavetta per il pranzo, regolare menzione nella lista dei migliori, e il sabato sera manda giù i suoi 3/4 di vodka in compagnia degli altri ragazzi del reparto. Non scrive più poesie. Ha delle amichette proletarie come lui. L'ultima tegola che potrebbe cadergli in testa sarebbe metterne incinta una e doverla sposare. E a guardare le cose bene in faccia, è più che probabile che questa tegola gli cadrà in testa. Come è caduta in testa Kadik, il suo apripista sulla strada della disfatta. Kadik ha appena messo su famiglia con un'operaia di nome Lidia, più vecchia di lui, nemmeno bella, e con il ventre che si sta già arrotondando. Il disgraziato ripete con penosa ostinazione per cercare di convincersi che con Lidia sta bene. Con lei ha trovato il vero amore e non si pente proprio, ma proprio per niente di sacrificarle le sue chimere da ragazzino immaturo. Povero Kadik, povero Edward. Neanche 20 anni è già spacciato. Delinquente fallito, poeta fallito, condannato a una vita di merda nel buco del culo del mondo. Gli hanno ripetuto spesso che è stato fortunato a non trovarsi con Costa e gli altri la sera in cui ubriachi hanno ucciso un uomo. Ma è proprio così? Non è meglio morire da vivi che vivere da morti? Quando, 30 anni dopo, Edward ricorderà quella notte, penserà che è stato per sentirsi vivo e non per morire, che ha preso dalla mensola sopra il lavabo il rasoio con il manico d'avorio del padre. Lui, Edward, a malapena si rasa. Ha una pelle asiatica, quasi glabra, una pelle che avrebbe meritato di essere carezzata da donne belle e raffinate, ma gli è andata male. Posa la lama affilata del rasoio sull'interno del polso. Guarda, nella penombra, la stanza brutta e familiare in cui ha trascorso più di metà della vita. Era ancora un bambino quando ci è arrivato, un ragazzino tenero e serio. Quanto tempo è passato? A 3 metri da lui, la madre russa sotto le coperte, con la faccia rivolta verso la parete. Morirà di dolore. Ma Edward ha già cominciato a farla morire di dolore quando ha abbandonato la scuola e si è messo a fare l'operaio. E allora tanto vale portare a termine il lavoro. La prima incisione è facile. La pelle si apre, è quasi indolore. Ma quando si arriva alle vene, la cosa si complica. Bisogna distogliere lo sguardo, stringere i denti, dare un colpo secco, premendo la lama a fondo per far uscire il sangue. Edward non ha più le forze per passare all'altro polso. Uno dovrebbe bastare. Lo appoggia davanti a sé sul tavolo. Guarda la macchia scura che si allarga sulla tela cerata e imbratta il rosso e il nero. Non si muove. Sente il proprio corpo raffreddarsi. Quando cade, il rumore della sedia sveglia la madre di soprassalto. Lui si sveglia il giorno dopo in mezzo ai pazzi. È peggio della prigione l'ospedale psichiatrico, perché in prigione almeno si conosce la durata della condanna. Si sa quando si uscirà, mentre qui si è in balia dei dottori che vi guardano da dietro gli occhiali e vi dicono «vedremo». O più spesso ancora non vi dicono niente. Si passano le giornate a dormire, fumare, a buffarsi di cascia, rompersi le palle. Rompersele talmente tanto che Edward scongiura Kadik di aiutarlo a squagliarsela. E Kadik, il buon Kadik, senza dire niente a quel cerbero di Lidia, appoggia una scala alla finestra e riesce a svellere una sbarra. Così Edward è fuori, deciso ad andarsene molto lontano, ma commette l'errore di passare da casa dove i poliziotti vengono a prelevarlo il mattino dopo. Li ha chiamati la madre. E quando Edward, pazzo di rabbia, le chiede perché lo abbia fatto, Raisa gli spiega che è stato per il suo bene. Se torna all'ospedale lo faranno uscire molto presto, è in regola. Mentre se evade diventerà un ricercato, e in regola non lo sarà mai. Belle parole. Probabilmente la madre ci crede davvero. Ma invece di farlo uscire presto, lo trasferiscono dai pazzi calmi ai pazzi furiosi, dove lo legano con asciugamani bagnati alle sbarre del suo letto, o più precisamente del letto che spartisce con un demente impegnato a masturbarsi da mattina a sera, perché i pazzi furiosi non hanno nemmeno un letto tutto per loro. Gli fanno un'iniezione al giorno di insulina, anche se non ha il diabete, tanto per insegnargli a stare al mondo e calmarlo. E Edward si calma, non c'è dubbio. Diventa lento, gonfio, molle. Sente che il cervello, privato di zucchero, gli va in pappa e non ha nemmeno più la forza di ribellarsi. Comincia a desiderare di cadere in coma, non svegliarsi e che sia finita. Dopo aver subito 2 mesi buoni di questo regime, Edward ha la fortuna di incappare in un vecchio psichiatra con le orecchie pelose, il quale, al termine di una breve conversazione con il ragazzo, trasformato in zombie, è tanto saggio da concludere: «Tu non sei pazzo. Vuoi soltanto attirare l'attenzione. Ti do un consiglio. Per questo ci sono mezzi migliori che tagliarsi le vene. Non tornare in fabbrica. Va a trovare queste persone da parte mia». L'indirizzo che gli ha dato il vecchio psichiatra è quello di una libreria del centro di Kharkov, che sta cercando un venditore ambulante. Si tratta di esporre libri di seconda mano su un tavolino pieghevole nell'atrio di un cinema o all'ingresso dello zoo e aspettare i clienti. I clienti sono rari, i libri quasi regalati e la percentuale di guadagno su ogni volume è ridicola. È un lavoretto più che altro adatto a riempire il tempo libero di un pensionato e Edward non resisterebbe a lungo se non avesse scoperto che la libreria 41, in cui va a prendere gli scatoloni al mattino e riporta l'incasso la sera, è il punto d'incontro di tutti gli artisti e i poeti di Kharkov, all'epoca chiamati decadenti. Il mondo attorno a cui orbitava il povero Kadik, prima che la falce, il martello e Lydia mettessero ordine nella sua vita. Nonostante la timidezza, Edward comincia a trattenersi dopo la chiusura. Gli capita spesso di perdere l'ultimo tram e dover camminare 2 ore al buio nella neve per raggiungere la lontana periferia operaia in cui vive. Infatti, è di sera, dopo che è stata abbassata la saracinesca, che si comincia non soltanto a bere e a chiacchierare, ma, soprattutto, a scambiarsi copie clandestine di opere proibite chiamate Samizdat, letteralmente autopubblicato. Ve ne consegnano una copia e voi ne fate qualche altra. Con questo sistema è circolata più o meno tutta la parte viva della letteratura sovietica. Bulgakov, Mandelstam, Lakhmatova, la Zvietajeva, Pilniak, Platonov. Al 41 è una serata storica quando, per esempio, arriva da Leningrado l'esemplare pressoché illeggibile, perché si è schiarito troppo, 5ª o 6ª copia carbone, stimano con una smorfia gli intenditori, della poesia del giovane Iosif Brodskij, La processione. Definita 20 anni dopo da Edward un'imitazione di dubbio valore artistico di Marina Tsvetaeva, che però corrispondeva esattamente al grado di sviluppo socioculturale di Kharkov e dei frequentatori della libreria. Non so bene cosa pensare di questo giudizio impertinente, per un motivo che forse è arrivato il momento di confessare. Sono del tutto sordo alla poesia, come quelli che, in un museo, guardano prima del quadro il nome del pittore sulla targhetta per sapere se devono o no andare in estasi. Così io, nel campo della poesia, non ho un'opinione personale, ragion per cui quella del giovane Edward, rapida e perentoria, mi incute il massimo rispetto. Edward non si limita a dire «mi piace, non mi piace», ma distingue a prima vista l'originale dall'imitazione. E non si lascia abbindolare, per esempio, da quegli imitatori dei modernisti polacchi che non hanno più l'originaria freschezza e sono a loro volta degli imitatori. Ho già accennato alla sorprendente competenza dei teppistelli di Saltov, capaci di individuare nei primi versi di Edward echi di Yesenin o di Bloch. Al 41 Edward scopre che Yesenin e Bloch non sono malaccio, allo stesso modo in cui non lo sono, per dire, Apollinaire o a voler essere cattivi, Prévert. Li capisce anche chi non ci capisce niente, ma chi ci capisce qualcosa preferisce di gran lunga un Mandelstam, o meglio Viktor Vladimirovich Chlebnikov, il grande avanguardista degli anni 20. Chlebnikov, per esempio, è il poeta preferito di Motrich, considerato il genio del 41. A 30 anni Motrich non ha pubblicato nulla e non pubblicherà mai nulla. Ma il bello della censura è che uno può non pubblicare nulla senza per questo essere sospettato di non avere talento. Anzi, ai margini del gruppo c'è un ragazzo che ha scritto una raccolta di poesie sull'equipaggio dell'incrociatore Dzerzhinskij, con la quale ha vinto il premio letterario del Komsomol dell'Ucraina. buon esordio, alta tiratura e all'orizzonte una bella carriera di apparatchik delle lettere. Ebbene, questo ragazzo è inferiore a Motrich, non soltanto agli occhi di tutto il 41, ma anche ai propri. E quando si arrisca a presentarsi in libreria, cerca in ogni modo di far dimenticare un successo che lo addita chiaramente come venduto e impostore. Motrich andrà incontro alla sorte di tutti gli eroi di Edouard, che è quella di essere in breve scalzati dal piedistallo. Ma per il momento è il suo eroe, un vero poeta vivente e, dirà più tardi Edouard, con una distinzione piuttosto sottile, un cattivo poeta ma un poeta autentico. Edouard legge i versi di Motrich, ne ascolta i vaticini, grazie alla sua influenza si appassiona a Chlebnikov, di cui ricopia a mano i 3 volumi delle opere complete, e nelle lunghe ore vuote che gli regala il suo lavoro di libraio ambulante, ricomincia a scrivere, senza dirlo a nessuno.